Ecco, l'avete sentito adesso per l'ultima volta, la soluzione ve la do, non era un tacchino americano, non era il tucano del Costa Rica, ebbene sì, era il rinoceronte, è il rinoceronte di Sumatra. Per ragionare su questa singolare vocalizzazione ho chiesto aiuto a Paolo Galeotti dell'Università di Pavia, che è docente di ecologia del comportamento animale. Gli ho chiesto inizialmente se è solo la voce del cucciolo oppure se è anche quella dell'adulto del rinoceronte di Sumatra. No, sentendo la registrazione anche del verso dell'adulto, possiamo dire che è praticamente identico. Non ci sono sostanziali differenze se non di frequenza, cioè una frequenza più bassa nell'adulto, quindi un suono più grave, diciamo più profondo. Ecco, ma noi ci aspetteremo certamente da un animale così grosso un'altra voce, insomma un altro tono. Sì, però di fatto questo è un piccolo, infatti, nell'adulto è più profondo, nettamente più profondo, e poi l'adulto possiede anche altri suoni, quindi diciamo c'è un'evoluzione in termini di maggior numero di segnali che vengono prodotti dall'adulto. Lei mi ha mandato un file di megattere. Sì. Io stavo per chiederle adesso se ci sono altri animali che hanno sonorità consimili, ma dobbiamo sentire questo file? Sì, direi di sì. Sì, in effetti le sonorità sono assolutamente, come dire, simili, molto simili, sia le frequenze sia lo sviluppo armonico, quindi è un vero e proprio canto con delle caratteristiche armoniche che infatti hanno anche affascinato gli uomini da molto tempo. Sì. Questo vuol dire che c'è un legame dal punto di vista evoluzionistico tra rinoceronte e megattere? Diciamo che questa somiglianza dei suoni è un ulteriore indizio di una comune discendenza di queste due specie. In effetti attualmente noi sappiamo che i rinoceronti e le balene, alcuni cetacei diciamo, hanno probabilmente un antenato comune che è da ricercarsi in un ancestrale ungulato, diciamo, quindi un ruminante terrestre più simile, se vogliamo, a un antico cavallo rispetto a quello che noi adesso vediamo. Quindi diciamo che questa somiglianza anche dei richiami, dei suoni, può effettivamente rappresentare un ulteriore indizio su questa lontana parentela. Noi sappiamo che appunto le balene derivano da questi ancestrali ungulati che probabilmente hanno dato origine anche a questi rinoceronti. Teniamo conto che quello di Sumatra è veramente una specie che è rimasta invariata da 40 milioni di anni, quindi una specie veramente quasi un fossile vivente. Ne sono rimasti anche pochissimi. Sono veramente pochi, effettivamente una specie a rischio di estinzione.